Come Happy Smile. E allora, ben ritrovati un'altra settimana insieme. Buon pomeriggio da Isa e Iaco. Iniziamo questo lunedì veramente alla grande. Speriamo che il vostro weekend naturalmente sia andato in maniera positiva. Fatecelo sapere naturalmente attraverso i nostri messaggi, attraverso il 335 5637 251, oppure isaiaco@crmpiradio.it, naturalmente attraverso la nostra pagina ufficiale di Facebook o attraverso la nostra linea telefonica allo 0921 423 456. Tante sono le opportunità, tante sono, come dire, gli accessi per poter comunicare con noi. Noi come sempre staremo due ore insieme, due ore piene di tanta buona musica, sia vecchia che nuova, perché sapete, noi siamo quelli nostalgici, quelli che ci piace la bella musica. Sapete, auguriamo anche un buon pomeriggio al nostro Iaco che sta al di là del vetro. Quindi siamo pronti per iniziare un altro pomeriggio, lo facciamo con il Power Back. Power Back. Abbiamo iniziato con la grande musica, con il disco rispolverato, con la Black Music, Bohemian Rhapsody, questo singolo che ha fatto veramente tanto successo, ma successo meno, è un singolo dal passato che a noi piaceva veramente tantissimo e che avevamo veramente tanta, ma proprio tanta voglia di farvi riascoltare. Ancora buon pomeriggio, ancora ben ritrovati, naturalmente salutiamo tutti, ma proprio tutti gli amici che ci ascoltano sia in questo live di questo lunedì pomeriggio, sia quelli che ci ascolteranno nel corso delle nostre repliche, quindi dalla mezzanotte in poi. Acting out all the scenes before my eyes. I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out, I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Talk to the head, cause I know you think the face is gone. Listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. Perfect happy clown, you gotta make a mistake. Gotta make mistakes. And people are saying strange things, and I don't wanna listen too much, yeah. Not about the blue sky. Blue sky. How can I tell you I know this won't be the last song? Too much. Not gonna give up on all the days that I know I won. That's where I'm going. Cause there's nothing, nothing but blue. Baby, I just don't wanna go. semplicemente Stereo Love. Mamma mia, a me piace tantissimo questo singolo. Mi ricordo quando è uscito agli inizi, praticamente a casa, lo confesso, perché ogni tanto bisogna confessare. Beh, lo riascoltavo tante di quelle volte che sicuramente a chiunque sarebbe venuta la nausea. Però io sono così, quando un singolo mi piace poi a tormentone lo ascolto finché mi noia e poi praticamente lo metto nel dimenticatoio. Oggi invece mi è venuta la rivoglia di ascoltarlo, l'ho chiesto al nostro Iaco e lui da bravo DJ mi ha accontentato, quindi lo ringrazio, grazie, perché non è solito che lui mi accontenta, quindi di tanto in tanto mi fa queste carezzine così dolci. Happy Smile, Iseiaco, CRM Happy Radio, un altro pomeriggio carico e pieno veramente di tanta buona musica e non solo. Perciò abbiamo veramente tanta ma tanta carne al fuoco anche per riguarda le notizie. Abbiamo scovato notiziole veramente interessanti. Parleremo di Elton John, parleremo di Kate Perry, Ligabue e poi di chi parleremo? Non posso svelarvi tutto, parleremo anche di Pink ad esempio. Però non vi svelo tutto perché altrimenti finisce il bello e la sorpresa del nostro appuntamento. Piccola pausa e poi musica italiana. Happy Smile con Isabella Ilardo. Si sarà pure misteriosa e tenebrosa quando vuole, fa paura. Ma ti abbraccia e ti difende se l'ascolti. Se ti nascondi e cerchi dentro lei la forza per andare avanti e non tradirla con il sole e raggi. Mi copre dagli insulti e dalle male lingue che cercano solo di ferirmi e screditarmi. Mi lascia fare anche se sbaglio a farmi male senza insultarmi. Non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto ed è rimasto dentro te soltanto il peggio. Ad un momento in cui mi sono sentito solo, senza coraggio, ma la notte so che pensi a me. Penso. Dico ci riesco, poi mi perdo, ci ricasco nei momenti di sconforto. Quando intorno a me è tutto buio come la notte, come le botte, come le ferite abbandonate, mai curate ancora aperte. Sbagliare umano, ma per te uno sbaglio è tutto. Sono solo un malandrino ed un violento. Per una volta provo ad ascoltare il cuore e non l'orgoglio, ma la notte so che pensi a me. Bravi proprio Modano, ho fatto un bel singolo che tra l'altro gli sta dando veramente tante gratificazioni perché sta avendo tanto successo, un singolo veramente che viene richiesto tantissimo, e non solo, perché nelle classifiche italiane si trova veramente ai primi posti. Allora, ufficialmente iniziamo i nostri pettegolezzi. Più che pettegolezzi, iniziamo a darvi le news per quanto riguardano i cantanti, quindi quello che riguarda la loro vita privata e non. Elton John è il padre biologico del figlio Zachary. Il bambino è nato il giorno di Natale tramite una madre surrogata, e sul certificato di nascita compare appunto come padre il baronetto del pop. Elton infatti desiderava che il figlio avesse i suoi geni, e quindi la mamma del piccolo, la cui identità tra l'altro non si conosce, è rimasta incinta grazie allo sperma di Elton. Quindi, in un certo senso, come dire, svanisce così la promessa fatta da Sir Elton al suo partner civile David Forrest, vi ricordate? Secondo la quale non avrebbero mai rivelato il nome del padre del proprio figlio. Beh, intanto la coppia sta tentando però di utilizzare il suo nuovo status di genitori per ottenere l'adozione di Lev e Artomy, i due fratelli ucraini. Quindi, ancora una volta, speriamo che vada in porto, perché no? Perché fanno del bene con dei bimbi che sicuramente hanno bisogno. A proposito di Elton John, sentite un po' che cosa abbiamo scovato. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the word. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done. Toc toc, ci siete? Vi siete addormentati? No, perché Iaco se lo stavo un po' chiedendo, sapesse che atmosfera che abbiamo creato noi. Abbiamo messo tutte le candeline sul tavolo, abbiamo chiuso tutti gli infissi e così ci addormentavamo. Scherzi a parte, proprio un gran bel brano, proprio per tutti quelli che amano questa musica, per tutti quelli che sono un pizzico più romantici rispetto ad altri. Sicuramente ha fatto piacere riascoltare Your Song della grande voce di Elton John. Ancora ben ritrovati, ancora buon pomeriggio. Adesso vi tiriamo un po' su perché troppa melodia, troppa musica così, come dire, sdolcinata, poi fa anche male. Arriva il nuovo singolo dei Maroon 5, Give a Little More. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, time for Africa. Stai ascoltando Happy Smile con Isabella Hilario. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment. Hesitation. Today's your day. Feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. waka waka eh eh samina mina saka lewa anawa ah ah samina mina eh eh waka waka eh eh samina mina saka lewa it's time for Africa. I'm well, I'm a journey, biggie biggie mama, one A to Z. My city's so solid, I'm a journey, biggie biggie mama, from east to west. My city, waka waka my eh eh waka waka my eh eh. This is Africa. For Africa, Tango, eh, eh, Tango, eh, eh, Samina, Mina, Santa Lewa, Anawa, ah, ah, Tango, eh, eh, Tango, eh, eh, Samina, Mina, Santa Lewa, Anawa, ah, ah. This time for Africa, this time for Africa, we're all Africa, we're all Africa. Stai ascoltando Happy Smile. Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è. Sei bell'anima per me. Hai qualcosa di me. Ho qualcosa anch'io di te. Che paura mi fai un giorno dell'anima. Caffè. Voglio far con te l'amore vero, quello che non abbiamo fatto mai, quello dove alla fine si piange e si leccano le lacrime, quello che adesso so di poter fare solo con te, quello tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu. Cosa siamo insieme noi? Siamo tutto e di più. Se hai bisogno divento dottore e l'attore che in me saprà farti non abituare. Buongiorno bell'anima, caffè. Voglio star con te, ma questi fantasmi ancora in noi sono più vecchi di ogni età e hanno poca fantasia, ingabbiano senza logica e tu mia piccola virtù tocchi il più alto punto in me, tanto che non torni più, tanto che resterai quassù. Buongiorno bell'anima, buongiorno bell'anima. Voglio far con te l'amore vero, quello che non abbiamo fatto mai, quello dove la splendida voce, la bravura, la sensualità, il carisma di Biagio Antonacci col suo ultimo singolo Buongiorno Bell'anima. Noi più che buongiorno vogliamo dirvi più che altro buon pomeriggio. Ancora ben ritrovati, siete all'interno di Happy Smile con Ise e Iaco. Adesso cambiamo un po' la situazione, da casa nostra, quindi dall'Italia, passiamo a Nelly, quindi all'hip hop, Just a Dream. Ancora ben ritrovati e non staccatevi, perché vi dico che oggi abbiamo ma tanta di quella bella musica, poi come sempre d'altronde, no? Naturalmente nuovo singolo anche per lui, parliamo di Nelly e la sua Just a Dream, ma adesso occupiamoci dell'unica tappa italiana del California Girl Tour 2011. Naturalmente parliamo della bellissima Katy Perry, con più di un mese di anticipo arriva praticamente, pensate, il tutto esaurito dello show in programma il 23 febbraio al Pala Sharp, naturalmente di Milano. One of the Boys 2008 e Teenage Dream, sempre sul fronte poi naturalmente di Katy Perry. La cantante a quanto pare avrebbe detto di essere convinta che tutti i maschiettini che vanno praticamente a vederla ad un concerto si eccitano per lei, e a quanto pare le ragazze portano i propri fidanzati ai live ma loro praticamente in gran segreto la sognano ad occhi aperti. Beh, noi naturalmente non possiamo dare nessuna smentita o nessuna conferma, perché se lo dice lei dobbiamo stare a quanto dice, però cercheremo un attimino di indagare, perché questa notizia, come dire, ci incuriosisce in modo, come dire, particolare. Vogliamo vedere se tutto ciò è vero oppure no. Intanto noi invece ci fermiamo per una piccola pausa e dopo si ritorna ancora una volta con la musica, quella proprio bella all'interno di Happy Smile. A dopo. CRM Happy Smile su CRM Happy Radio con Isabella Ilardo. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Laying underneath the palm trees. Yeah. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queen. Katie, my lady, yeah. Look at here, baby, uh-huh. I'm all up on you, cause you represent California. Ritornati dopo una piccola pausa, una bella bottiglietta d'acqua bevuta perché avevo la gola secchissima, non riuscivo più a parlare. Voi naturalmente dite, ma noi che ce ne frega. Ci sembrava doveroso, visto che abbiamo parlato di Kit Perry, di mandare il suo singolo California Girl col featuring di Snoop Dogg. E adesso aprite bene le orecchie perché è ritornata. Speriamo che non fa più casine, che fa solo succio. Please forgive me if I'm coming on too strong. Hate to stare, but you're winning. And I play my favorite song. So come here, a little closer. Wanna whisper in Sicuramente un singolo molto commerciale, un singolo che colpisce, un singolo che va veramente in porto. Si tratta del nuovo singolo di Britney Spears, All This Against Me, che la scorsa settimana si piazzava alla numero 1 all'interno della Billboard Hot 100, quindi ciò vuol dire che è ritornata semplicemente per fare della bella musica e non per far casini, per far parlare di sé solo in situazioni brutte. Però siamo contenti perché è un singolo, come ho detto, sì, vabbè, molto commerciale, però è un singolo grazioso, uno di quei singoli che una volta che lo ascolti praticamente ti rimane dentro l'orecchio e che magari quando sei sotto la doccia canticchiarlo sicuramente riesci a farlo. Ma adesso parliamo di un grande artista. Lui non fa canzonette, ma fa delle canzoni veramente bellissime. A me è un artista che è sempre piaciuto in maniera strepitosa. Sapete, quando ero più fanciulla, quando ero più giovane, all'interno della mia stanza mega poster, praticamente tutta la stanza tappezzata dei poster di Ligabue. Poi sapete, è arrivato, adesso svegliamo questa cosa, no? Perché me la sono sempre portata dietro e dentro di me, non l'ho mai raccontata, ma adesso voglio un po' svergognarlo. Raccontiamo un po' i fatti nostri. Beh, da quando è entrato nella mia vita Iago, praticamente tutti i poster di Ligabue sono scomparsi perché a lui questa situazione gli dava molto fastidio. Voi uomini poi d'altronde siete così, vi appiccicate nelle fesserie, ma lasciamo stare la nostra vita privata e parliamo di Ligabue e ci chiediamo se si è mai abituato a tutti i successi che è in camera, perché il suo ultimo lavoro, Arrivederci Mostro, è secondo fonte Fimi l'album più venduto del 2010. Il tour, pensate, è stato una sequenza di sold out e dal 22 gennaio, quindi già partito, fino al 3 marzo il Liga porterà in giro per l'Italia il suo quasi acustico tour teatri 2011. Pensate, 28 concerti in 20 città, tutto sold out. A proposito, ricorda Liga che loro hanno deciso che lo spettacolo sarà molto semplice, essenziale, senza uso di schermi. Vorrebbero che tutta l'attenzione si concentrasse appunto sulla musica. Abbiamo fatto una scelta che poi dal punto di vista produttivo è sicuramente balorda, perché hanno deciso di chiedere uno sforzo in più a chiunque lavorerà per questo tour, perché così non solo raggiungeranno quasi ogni regione d'Italia, ma soprattutto ogni sera suoneranno in un teatro diverso. A loro piacerebbe che ogni serata avesse un sapore davvero unico, e sicuramente sarà così, perché ogni concerto di Liga, io non ho mai avuto sino adesso la fortuna di vederlo in concerto, però magari quei concerti visti in TV trasmettono veramente tantissimo e sono pieni di sensazioni, sensazioni belle, sensazioni nuove di volta in volta, quello naturalmente è sicuro. A proposito di Luciano Ligabue, beh, naturalmente ci ascoltiamo il suo singolo Ci sei sempre stata. Più ti guardo e meno lo capisco, da che posto vieni? Forse sono stati tanti posti, tutti da straniera. Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare. Chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. Quando il cielo non bastava, bastava la brigata, un re solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando si allungava l'ombra sopra tutta la giornata, un re solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Guardo e più mi meraviglio e più ti lascio fare. e ti guardo, e anche se mi sbaglio, almeno sbaglio bene. Il futuro è tutto da vedere, tu lo vedi prima, me lo dici, vuoi che mi prepari e sorridi ancora. Quando il tempo non passava, non passava la nottata, stato mai sprecato, nemmeno un gesto così, così, nemmeno un bacio che sia stato regalato, nemmeno un gesto così, tanto per così. Io ti guardo e meno lo capisco, quale giro hai fatto? Ora parte tutto un altro giro, io ho già detto tutto. Quando il cielo non bastava la brigata, vorrei solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando il tempo non passava, passava la nottata, eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Let's go. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Yeah! When Love Takes Over, la grande musica ancora di scena, ancora una volta qui in questo pomeriggio insieme a Dise Iaco su CRM Happy Radio. Siete all'ascolto di Happy Smile, tanta musica, tante notizie, tanto calore, perché lo sapete che noi vi amiamo. I messaggini sono già arrivati, tra un po' inizieremo anche a leggerli. A proposito, vi ricordo il 335-56-37-251, lo 0921-423-456, perché l'altra volta praticamente dice: ma ci stai pensando adesso? Sì, perché poi magari uno ascolta le repliche nel notturno per vedere gli errori che fai e le cose che ripeti di più, perché io uso far così. Praticamente vi ho ricordato il numero di telefono e mi sono mangiato un numeretto, il 6 praticamente l'ho lasciato a casa, ma siccome voi siete così affezionati sicuramente non ci avete neanche fatto caso. Mancano poche settimane all'arrivo dei The Script in Italia per l'unico live italiano che si terrà il 10 febbraio all'Alcatraz di Milano. La data fa parte della tranche europea del tour del trio, che si concluderà a fine marzo, quando appunto la band farà tappa in Asia e Oceania prima di intraprendere il tour negli Stati Uniti. Praticamente il 2011 si preannuncia come l'anno d'oro della band e noi siamo contenti, perché loro fanno veramente della bella musica, quella musica che entra veramente dentro. And although there's pain in my chest, I still wish you the best. With the fuck you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more an Atari. But the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Tell your little boy free. See you driving around town with the girl I love, and I'm like, fuck you. I'm just a change in my pocket, it wasn't enough. I'm like, fuck you, and I fuck her too. Said if I was richer, I'd still be with you. But no, ain't that some shit? And although that's pain in my chest, I still wish you the best. I'm like, fuck you, and I CRM. Si sa e si vede. Smile con Isabella Ilardo. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming on more and more, 'cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Know y'all been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure. With seconds left, I show up. If you really want more, scream it out loud. Leave it on the floor. Bring out the fire. the zone tight, put them in the air if you want more and more. Cause I can break, feel it, I go hard, can't stop. But if I stop it, just know that I'ma bring it back. Hey. Never quit, no believing that. Though you've been patiently waiting, I know you need me. I can feel it, I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror, the headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure, with seconds left, I show up. If you really want more, scream it out louder. Keep it on the floor, bring out the fire. And light it up, take it up higher. Gonna push it to the limit, give it more. If you really want more, scream it out louder. Keep it on the floor, bring out the fire. And light la voce naturalmente è quella di Usher. Noi siamo ancora insieme all'interno di Happy Smile anche per oggi. Un gran pomeriggio passato insieme, tantissime le notizie che vi abbiamo dato. Poi, come ho detto in precedenza, cominceremo a leggere qualche messaggino già pervenuto al 335-56-37251. Visto che ci siamo, vi ricordo anche la mail isaiaco@crmpiradio.it, naturalmente la nostra pagina di Facebook è lo 0921-423456. Grande singolo di Usher che sta veramente viaggiando per il verso buono. Si tratta di More qui su CRM Happy Radio. La grande musica circola di scena ancora una volta. Dopo Usher si passa ancora ad un grande successo. Si tratta di Dennis Ferrer e la sua Hey Hey Hey. Anche questo è un bel pezzo, no? Un pezzo che viaggia, un pezzo che sicuramente vi troverete lì a ballare un po' ovunque. Till you came around, I had my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day. Till you came around, and now my life's upside down. Imagine that. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I walked your way. And I heard you say, I heard you say. Just an ordinary day. Detto fatto e promesso, no? Cominciamo a leggere qualche messaggino arrivato al 335-56-37251 prima che chiudiamo l'appuntamento e poi non ce la facciamo naturalmente a leggerli. Allora, voglio salutare la nostra Elisa che ha avuto un po' un fine settimana bruttino, visto che purtroppo con questi sbalzi di temperatura si è beccata una bella influenza a letto, però tutto sommato ci scrive che non tutti i mali vengono per nuocere, perché giustamente stando a casa diciamo che si riposa un attimino ed evita anche di andare a scuola, avete capito? Vabbè, poi in giro tutti abbiamo avuto questi momenti che praticamente desideravamo la febbre addosso per non poter andare a scuola. Sfido io chi non l'ha mai fatto, chi non l'ha mai pensato. Allora, dopo il successo di Rise Your Class, primo inedito estratto dal disco Greatest Hits So Far, Pink si prepara a lanciare il nuovo singolo Thinking Perfect. Si tratta di una ballata inedita, sempre compresa nella tracklist del Best Of, che ripercorre un po' la carriera dell'artista cresciuta a Philadelphia. L'appuntamento invece con il videoclip è prossimamente sulla pagina ufficiale di Facebook. Quindi se non l'avete ancora fatto, a premere e cliccare sul tastino mi piace. Appena lo vedete dovete farlo, perché diventerete fan di Pink e naturalmente di questo attesissimo singolo Thinking of You, che sicuramente farà tanto successo quanto l'ha fatto il primo singolo. Il primo singolo mi è piaciuto veramente tanto, e visto che mi è piaciuto veramente tanto voglio farvelo riascoltare. Ancora buon pomeriggio, anzi possiamo anche dire una buona serata. When it's all too much, 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. Don't you understand? Wish you just freak out. Freak out already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. So raise your glass. Stai ascoltando Happy Smile. Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi, la musica, i libri, aprire i regali, i viaggi lontani che fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore, gli sguardi e quell'attimo prima di un bacio, le stelle cadenti, il profumo del vento, la vita rimane la cosa più bella che ho. Una stretta di mano, tuo figlio che ride, la pioggia d'agosto e il rumore del mare, un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore e poi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. La vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere e restano dentro di te e ti fanno sentire il calore ed è quella la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo dicono quel che sei. Tentare di farlo sul serio per non consumare nemmeno un secondo e sentire che anch'io sono parte del mondo e con questa canzone dico quello che da sempre so, che la vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere, le vivi, le senti e tu ogni giorno ti renderai conto che sei vivo e a dispetto del tempo. Non le abbandoni più. Oh, oh, oh. Non le abbandoni più. La voce è quella di Neck. Noi dobbiamo salutare il nostro amico Tiziano che ci augura un buon pomeriggio, che naturalmente il suo artista preferito Neck l'ha preferito lui, quindi se lo avete ascoltato è grazie alla preferenza al 335-56-37251 del nostro Tiziano. Ma adesso ti fanno dei Take That, aprite bene le orecchie perché tornano come ospiti al Festival di Sanremo. La boy band sarà sul palco dell'Ariston, informazione completa, per presentare l'ultimo e fortunatissimo album Progress. La prima apparizione dei Take That alla kermesse della canzone italiana risale al 1994, quando appunto seguirono dal vivo, ricorderete, Relight My Fire, poi ci ritornarono nel 96 senza Robbie Williams per presentare How Deep Is Your Love, nel 2007 con Shine. È stata confermata anche la partecipazione dei 5 Take That alla cerimonia di consegna dei Brit Awards 2011, in programma il 13 febbraio all'Arena di Londra. Intanto invece dallo scorso venerdì, quindi il 14 gennaio, è in rotazione radiofonica in Italia Kids, un nuovo singolo tratto da Progress dopo il grande successo di The Flood, questo singolo che ha fatto riemergere e ritornare naturalmente la boy band. E poi un'altra grande notizia, perché oltre che al Festival di Sanremo potrete vedere la band dal vivo in Italia nell'imperdibile concerto che si consumerà il prossimo 12 luglio allo Stadio San Siro di Milano, in quella che sarà tra l'altro l'unica tappa italiana del Progress Live Tour. Sicuramente già i biglietti saranno quasi del tutto esauriti, perché loro veramente sfondano quando arrivano, come sfonda anche lui, perché è un grande artista che fa della bella musica. Si tratta di Craig David, la sua Walking and Away. say you what you won't say, and I'll take the blame if it's for your sake. No turning back on what you can't say. So I'll just say you won't say. Stai ascoltando Happy Smile. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. Per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. How you made me love you. Con le sue difficoltà. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Pensieri ripidi, per solitudine e deserti aridi. Siamo loro, yeah. dai, confessatelo, era proprio da parecchio tempo che non ascoltavate Ramazzotti e Anastasia con I Belong to You. Grande voce veramente, sia l'una che l'altra, due grandi artisti che abbiamo fatto militare all'interno del nostro appuntamento qui di Happy Smile, che anche per oggi sta quasi terminando. Gli ultimi, volendo, 5-6 minuti da gustare ancora la buona musica. E dal 22 marzo sarà nei negozi Amazon As Fuck il nuovo album live dei Green Day. La release è composta da un CD e un DVD che raccolgono praticamente le esplosive performance catturate durante il tour mondiale tenuto dalla band. Dopo la fine di questa servitosa tournée, tra l'altro, Billy Joe, Mike e Trey Cool hanno passato un po', come dire, al setaccio l'audio di tutti i concerti per individuare un po' le migliori performance live, e noi naturalmente siamo sicuri che ci riusciranno. While I'm drinking Jack all alone in my local bar, and we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration, trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line, and we don't know how we got into this mess. It's a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, and man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, sit talking up all night, saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. And we both know how we're gonna make it work when it hurts. When you pick yourself up, you get kicked to the dirt. Trying to make it work, man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine, sit talking up all night, do things we haven't for a while, yeah. Smiling, but we're close to tears. Even after all these, just now got the feeling that we're meeting for the first time. Talking up all night, saying things we haven't for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Yeah. making us crazy. Don't give up on me, baby. Stai ascoltando Happy Smile con Isabella Ilardo. Sì, proprio così. Anche per oggi si chiude il nostro appuntamento. Due ore sono scivolate in un barter d'occhio. Proprio così. Le cose belle finiscono sempre veramente subito. Naturalmente Ise e Iaco vi ringraziano per esserci stati per questo primo appuntamento settimanale di Happy Smile. Noi ci risentiremo naturalmente mercoledì, quindi mi raccomando, comunque in ogni caso ascoltate sempre CRM Happy Radio, perché la radio vi fa ascoltare la grande musica di ieri e di oggi. Ciao belli, vi lasciamo con Britney Spears. Just Show me how you work.